svugi svuda. I sporco di fango, tra trame e di ruggine, se dove spinge un sole che mi asciuga a un metro dalla grandine. Coraggio qualche volta da qualche signora che altro animale non ha, chiuse l'ennesima porta, c'è la strada e lei che dietro chiamerà.